Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci con l'Adico di Mestre, secondo appuntamento di questa settimana, come sempre nella giornata del giovedì. Ben ritrovato al presidente Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Qualche giorno fa era arrivata l'ufficializzazione, la decisione era in base a una sentenza della Consulta. Mancano poche settimane con il mese di agosto dal primo, dato che le pensioni adesso si pagano il primo del mese, per i famosi rimborsi anche se non totali e omnicomprensivi. La vicenda appunto la conoscete e molti magari anche all'ascolto sono direttamente interessati. Allora Carlo, questi rimborsi arriveranno? Certamente una buona notizia, appunto tra poco, dal primo di agosto, persone interessate appunto per la quota 1500 euro, ovviamente poi a scalare per le quote successive. La novità è che i pagamenti sono validi anche per gli eredi. Sì, giustamente hai detto tu, c'è questa importante novità che dal primo agosto ci sarà questo, definiamolo, rimborso parziale, che l'INPS andrà a pagare a tutti i suoi pensionati, di cui chiaramente moltissime persone si troveranno così con la pensione di questo mese in busta paga, e certamente avranno un assegno molto più corposo rispetto a quello normale. Ricordiamo che questa manovra è stata sancita per effetto di una sentenza della Consulta che il governo ha dovuto recepire con un decreto legge, e che interessa persone che hanno una pensione da 3 volte al minimo fino a 6 volte, secondo un meccanismo di proporzionalità che è stato confermato da una circolare pubblicata proprio qualche giorno fa. Quindi il massimo di rimborso, che comunque non è il 100%, ce l'avranno quelli con le pensioni più basse, e poi via via che si sale nella quota di pensione il rimborso sarà in proporzione ovviamente ridotto. Proviamo a fare qualche esempio giusto per quantificare. Per esempio, per chi ha una pensione che è 3 volte superiore al minimo e quindi appena inferiore a 4 volte al minimo, perché si parla di 3 volte superiore fino a massimo di 4 volte al minimo, per farci capire, 1500 euro che ricordiamo sono lordi, percepiranno gli arretrati 2012-2015 di 796,27 euro, mentre saranno restituiti, per chi prenderà di più via via, cifre sempre minori fino ad arrivare a 48,51 euro, che viene calcolato su una pensione 6 volte il minimo, quindi siamo a poco più di circa 2000 e qualcosa euro lordi. Però al di là di questa cifra e al di là di questi importi, che ricordiamo sempre che sono una cifra parziale che i pensionati hanno diritto e che sono arretrati 2012-2015, noi ricordiamo innanzitutto che come Adico abbiamo predisposto una diffida legale per mettere in mora l'INPS e richiedere tutto quello che sono le proprie spettanze rispetto a quelli che sono gli importi che il governo ha definito. E soprattutto c'è una particolare novità che riguardano gli eredi, perché anche in questo caso l'INPS nella circolare appena approvata ha precisato che i pagamenti riguarderanno anche gli eredi. Però bisogna fare molta molta attenzione, perché solamente coloro che faranno domanda ne avranno diritto, per cui in questo caso non ci sarà il meccanismo. Questo significa che se una persona nel frattempo è deceduta, da quando appunto si applica dal 2012, comunque gli eredi hanno diritto al rimborso, ovviamente per quota proporzionale hanno diritto, ma lo devono chiedere, cioè il rimborso non è automatico. Sì, purtroppo lo devono richiedere, per cui fare molta attenzione, perché magari chi non sa la cosa oppure pensa che ci sia l'automatismo rischia di perdere i benefici. Ricordiamo che in tutta questa vicenda il governo ha destinato 2 miliardi di euro rispetto ai 18 che avrebbe dovuto destinare, pertanto invitiamo tutte le persone a seguire un attimino lo sviluppo e l'evolversi di queste iniziative, perché riteniamo giusto che insomma anche gli altri vengano istituite, a prescindere da quella che insomma possono essere le somme che il governo è andato a stabilire di voler dare. E questo appunto in base alla sentenza della Consulta che aveva dichiarato parzialmente appunto illegittimi quel mancato adeguamento al costo della vita. Sul fatto che adesso le pensioni vengono pagate al primo del mese, voi come vi collocate? Cioè qual è il vostro parere? Ecco, anche questa amico è una novità che è stata introdotta dal governo pochissimo tempo fa. Hanno voluto adeguare tutte le date che fino ad oggi c'erano ed erano sfalsate, qui 14, 16, 22, al primo mese. Riteniamo che possa essere una semplificazione positiva, ma siamo consapevoli che alla prova dei fatti si traduce sempre dei soldi in gogo verso gli sportelli e quant'altro, per cui in realtà dare un giudizio positivo o negativo non me la sento, perché anche a volte le iniziative che possono essere di aiuto per il cittadino e che possono semplificare la vita, in realtà poi alla fuori dei fatti risultano sempre complicate. L'ultima esperienza abbiamo avuto anche con il 730 poi compilato, di cui siamo usciti pochi giorni fa, e abbiamo visto come anche qui una norma, una idea, un progetto che il governo aveva di semplificazione alla fine ha creato un grandissimo disagio sia al contribuente che al CAF, che si sono trovati a fare un lavoro enorme rispetto agli anni precedenti. Allora, sulle pensioni magari ci torneremo prossimamente. Intanto noi ti ringraziamo, ricordiamo associazionedifesaconsumatori.it e ci ritroviamo la settimana prossima per altri due argomenti. Grazie Carlo, buona giornata. Grazie a te Nico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.